Chiaramente noi siamo contenti perché lo studio che avevamo fatto in tutti questi anni ha determinato la condanna del quarto personaggio che ha partecipato all'esecuzione della strage di Bologna. Ecco, teniamo conto che sicuramente ci sono altre persone che hanno partecipato in modo diretto quel giorno, non è che ci fossero quattro persone dedite allo a far esplodere una bomba, ma ce ne erano molte di più e piano piano speriamo di trovare anche le altre. Siccome nell'ambito delle conclusioni da parte della difesa è venuto fuori il discorso, dopo 40 anni stiamo ancora facendo processi di questo tipo, qui c'è da domandarsi, ma perché ci sono voluti 40 anni? Perché queste collusioni con i servizi segreti non sono venute fuori prima e perché questo terrorista non è stato condannato in molto ma molto tempo fa, insomma, ecco, come gli altri che sono sicuramente assieme a lui erano sicuramente a Bologna quel giorno. Durante questo processo sia l'imputato che testimoni già condannati, insomma chiamati a testimoniare, continuano a negare, continuano ad avere disprezzo anche verso i familiari delle vittime. Mentre non so, nel 1980 le carte erano tante e non c'erano la strumentazione che c'è adesso per analizzare queste carte, adesso con la digitalizzazione dei processi, la digitalizzazione delle carte, è chiaro che ti presenti in tribunale non solamente con delle ipotesi, avevi nell'80 delle carte che ti portavano a determinate conclusioni, adesso ne hai molti di più, adesso hai dei fatti che smentiscono in maniera clamorosa le assurde teorie che nell'80 potevano avere, come posso dire, un certo credito. Ecco, noi qui dobbiamo sempre dire che è stato fatto un grande gioco di squadra e noi familiari delle vittime dobbiamo ringraziare naturalmente anche gli avvocati, i nostri consulenti che hanno permesso di fare tutti questi studi. C'è da dire che l'appoggio degli enti locali non è mai cessato e questo è anche un altro fattore che ci ha portato sicuramente a questi risultati, insomma, ecco, per intendersi. Tra l'altro questo qui è un risultato estremamente positivo perché ci permette di allungare il passo verso i mandanti. Ora è un po' più vicino, è un po' più possibile arrivare ai mandanti? Beh, tieni presente che Cavallini era un personaggio di alto profilo, era un trait d'union tra il terrorismo veneto e lombardo e quello romano, e in più si è visto anche dalle cartesi che hanno portato i nostri avvocati in aula, i collegamenti con i servizi segreti li aveva sia lui che anche Mambro e Fioravanti, e queste sono cose nuove. Sono tutte da carte vecchie, tanto per intendersi, solo che vengono fuori in questo momento. Anche Mambro e Fioravanti, dopo la strage, si erano rifugiati in un appartamento dove c'era una società dei servizi segreti. Capisci, claro, quando cominciano a venire fuori tutte queste cose qui, è inutile che vengano a parlarci di improvvisazioni, di spontaneisti o cose di questo tipo. Sono tutte fandomie che vengono fuori e questo è merito anche di tutta la grande analisi delle carte che è stata fatta in questi tempi. Però insisto, tieni presente che ad esempio, mentre la digitalizzazione è una cosa che stenta anche in altre parti d'Italia per quello che riguarda le carte storiche, a Bologna, cioè in Emilia, tutte le carte relative alla strage di Bologna sono state già digitalizzate con un contributo della regione. Credo che questo sia una cosa estremamente importante, uno per salvare le carte, due per poter avere poi dei risultati di un certo tipo nel momento in cui ricerchi la verità. Tanto per intendersi, ecco. Sull'inchiesta sui mandanti dobbiamo aspettarci delle novità a breve? Ma io spero di sì, anche perché il tempo che avevano i magistrati per fare determinate indagini è oramai finito, pertanto credo che entro la fine di gennaio ci dovrebbero essere delle novità, e novità molto molto interessanti, ecco, che danno sicuramente, cominciano a dare l'idea di dove si può arrivare percorrendo la strada fino in fondo dei mandanti.